non aggiungo altro per quello che stai diventando, i cambiamenti che ogni giorno stai facendo, il tuo modo d'espressione, la tua risata che mi assale, la vitalità che anche da stanca non vuol mollare. E poi quante domande, per certe niente risposte, ti metti a ballare, a disegnare, ovunque mi volto che c'è, il casino che lasci te, e mi chiedo se mai ordinata tu diverrai. Crescendo capirai, avrai il tuo bagaglio, crescendo cambierai con ogni dubbio sbaglio, crescendo inizierai a vivere la vita, intraprendendo il viaggio tra discesa e salita. Ora sei piccola e certe cose non comprendi, sii più testarda che puoi, mostra che non t'arrendi, arrabbiati se vuoi ma ottieni il risultato, e se non ce la fai puoi dire ci ho provato. Abbraccia un sogno tuo e abbine sempre cura, ognuno di noi ha il suo, realizzarlo è proprio dura. Se il mio orgoglio sai che io ne son sicuro, una gran donna sarai, vedrai più in là in futuro. Crescendo capirai, avrai il tuo bagaglio, crescendo cambierai con ogni dubbio sbaglio, crescendo inizierai a vivere la vita, intraprendendo il viaggio tra discesa e salita. Crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, capirai, avrai il tuo bagaglio, crescendo cambierai con ogni dubbio sbaglio, crescendo inizierai a vivere la vita, intraprendendo il viaggio discesa e salita. Il tempo ti segnerà, il vento ti accarezzerà.